Quanti sono gli Edgardo Ghizzoni che non si chiamano Edgardo Ghizzoni? Quanti come lui sono nati a Correggio e quanti invece in un'altra cittadina o in mezzo alla pianura, in un casolare isolato, di quelli che la storia li visita di rado, quasi per sbaglio, e altrettanto di rado se ne ricorda? Alcuni come lui erano appena quindicenni, quando i fascisti delle loro contrade uccisero per la prima volta, colpendo amici o conoscenti, ragazzi poco più grandi. Altri avevano un anno o due di più, oppure di meno, non cambia molto. Diventati adulti, si può immaginare che locali frequentassero, per bere un bicchiere o cospirare, ripetendo nel loro dialetto l'equivalente del reggiano «Ak vol Lenin», «Ci vuole Lenin». Si può immaginare che lavoro facessero, perché tra quelli come Edgardo Ghizzoni, pochi sono gli avvocati, i medici, i professori. Pochi, anzitutto, perché il fascismo non se li è scelti a caso, i nemici da colpire. E pochi, alla fine, perché gli avvocati, i medici e i professori con le costole rotte, coi polmoni sfondati, hanno case più calde dove riposare, ambienti più sani dove guarire, medicine da comprare, dottori amici a cui rivolgersi, stratagemmi più efficaci per ingannare la morte. Gli Edgardo Ghizzoni, che non si chiamano così, sono muratori, braccianti, contadini, falegnami, operai. Vengono da famiglie socialiste, anarchiche, comuniste. Oppure sono i primi, della loro schiatta, ad aver osato iscriversi a un sindacato, a una cooperativa, a una lega di lavoratori. I primi a scioperare, i primi a pretendere di star meglio, senza aspettare il giudizio universale. Malmenati per questo, sulle strade di un borgo che sa di letame, aggrediti nella nebbia che sale dai fossi, pestati a sangue accanto alla bicicletta, stesi nella polvere di una cavedagna, nel fango dei campi, sul selciato di una piazza, fuori dall'osteria, davanti alla porta di casa. Gli Edgardo Ghizzoni, che non si chiamano così, hanno stretto i denti e si sono rialzati. Una, due, tre volte. Finché a un certo punto hanno detto basta. Rifiutare un mondo è il primo passo per cambiarlo e il loro rifiuto si è chiamato emigrazione. Chi a Milano, proprio come Edgardo, chi a Torino, a Parigi, nel Belgio, grandi città o nazioni straniere dove non essere più bersagli, dove anche un Edgardo Ghizzoni non è più quell'Edgardo Ghizzoni. Eppure le ossa rotte continuano a tormentare, le cicatrici biancheggiano e sul fazzoletto la macchia di sangue è sempre più grossa. Tubercolosi, polmonite, malattie che aggrediscono corpi già sofferenti. Duri a crepare, gli Edgardo Ghizzoni, che non si chiamano così, hanno passato anni dentro e fuori da un sanatorio, a Milano, a Torino, mesi e mesi in un ospedale di Parigi o di Bruxelles. Quanti sono gli Edgardo Ghizzoni che non si chiamano Edgardo Ghizzoni? Tanti. Se si intendono quelli che hanno vissuto come lui, che come lui sono morti intorno ai 20 anni, massacrati dai fascisti. Pochi, invece, se si intendono quelli che non si chiamano come lui e dei quali nemmeno si conosce il nome. Quelli dimenticati del tutto, quelli la cui morte è passata inosservata, senza che nessuno la collegasse a quell'aggressione in mezzo ai campi, all'emigrazione in una grande città, al peggioramento della salute, alla malattia finale. Perché una caratteristica di tutti loro, al di là delle curve di ogni vita, è che gli Edgardo Ghizzoni, comunque si chiamassero, ebbero un tempo compagni e compagne. Chi ha compagni e compagne non viene dimenticato. Loro lo sapevano. Poteva perdersi memoria del loro indirizzo, del portone accanto al quale inchiodare una targa. Qui visse, qui morì. Ci si poteva scordare se avessero una fidanzata o un amore segreto, chi fossero i loro eredi o i loro genitori. Ma i compagni e le compagne avrebbero ricordato il loro sacrificio, in poche righe o in molte, con un'intera canzone o nel verso di una poesia, sul muro di una piazza o tra le foto di un sacrario, in un articolo di giornale o nel nome di una strada. Loro lo sapevano, chi ha compagni e compagne vive per sempre.